Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Buon pomeriggio a tutti voi da Gegè Telesforo, siete in contatto con il Groovemaster Studio per la puntata numero 195 del Soundcheck, la prova del suono di Radio 24. A qualche ora ormai, qualche giornata dal Natale, oggi vogliamo proprio celebrarlo consigliandovi musica che potrà così diventare la colonna sonora ideale per le vostre feste. Sì, ci sono degli album nuovissimi appena pubblicati, ma anche si possono recuperare le produzioni che hanno segnato le feste, soprattutto negli Stati Uniti, con brani che vengono dal repertorio tipico, che so, di Ella Fitzgerald piuttosto che Diana Krall. Allora, diamo il via alla puntata con un album nuovissimo, quello prodotto dal formidabile vocalist della nuova generazione, un musicista che viene dal gospel ma molto richiesto nel versante contemporary R&B. Vi sto parlando di Anthony Hamilton, album nuovissimo intitolato Home for the Holidays. Sì, la casa delle vacanze di Anthony Hamilton è addobbata di brani che vengono dal gospel ma anche dal soul degli anni 60. Infatti Anthony Hamilton ha rivisitato una composizione, pensate un po', di James Brown, maestro del funk, che ha sempre sentito tantissimo le feste di Natale. Il brano si intitola Santa Claus Go Straight to the Ghetto, ma poi anche una composizione originale bellissima intitolata Coming Home per Anthony Hamilton, che apre il soundcheck di oggi con Home for the Holidays. Questa è la casa delle vacanze di Anthony Hamilton e del nostro soundcheck. Never thought I'd realize I'd be singing a song with water in my eyes. Santa Claus, go straight to the ghetto. Don't need nothing for me. I've had my chance, you see. Go straight to the ghetto. Santa Claus, the soul brothers need you. Santa Claus, tell a man Anthony sent you. Ladies and gentlemen, you're listening to Soundcheck. That would be the best gift. Baby, I promise I'm coming home. Baby, this Christmas, home is where the heart is. I'm coming home. Yeah, baby, I promise. Home is where the heart is. I'm coming home. Nuovo splendido album per Anthony Hamilton, che festeggia questo Natale con Home for the Holidays, con due brani qui al soundcheck: Santa Claus Go Straight to the Ghetto, brano scritto da James Brown, pensate un po', negli anni 60, e poi una composizione originale intitolata Coming Home. E sì, questo è il periodo del gospel che arriva in Italia con una serie di appuntamenti da non perdere. Questa sera all'Auditorium Parco della Musica di Roma, Gabriele Ciampi, Harlem Gospel Choir, il concerto che poi sarà replicato domani al Teatro Bellini di Napoli e il 23 al Teatro Europauditorium di Bologna. Il 26 e il 27 saranno al Blue Note di Milano. Altri concerti gospel nel nostro paese, ce n'è un altro questa sera: Kevin Lemons and Higher Collins, Palazzo Bellini di Comacchio a Ferrara, il 22 al Teatro Guglielmi di Massa, il 23 al Teatro Savoia di Campobasso, il 25 al Teatro Comunale di Atri in provincia di Teramo. E da non perdere anche il concerto che ci sarà domani, lunedì 22, Spirit of New Orleans Gospel Choir al Teatro Vittorio Alfieri a Castelnuovo della Garfagnana. E non manca il gospel qui al soundcheck di Radio 24. Arriva Reverend Kirk Franklin con Imagine Me. Imagine me in a Soundcheck. Il suono della musica. Merry Christmas. Shake a hand now. Wish your brother Merry Christmas. E purtroppo è scomparso giovanissimo, lasciando in eredità a tutti noi pochissimi album, 3 in studio, 2 dal vivo, la grande voce di Donny Hathaway in questa composizione scritta per lui, intitolata This Christmas. E in questi giorni anche nel nostro paese c'è tanta musica da seguire. Andiamo per esempio a Torino, all'Hiroshima Mon Amour, proprio questa sera con il concerto della bravissima Cristina Donà, e questa sera invece al Mediolanum Forum di Sago c'è il concerto della bravissima Giorgia. Nicola Piovani al Teatro Ambra Iovinelli di Roma si fa belle giornate di musica dal 21 al 27, ma questa sera c'è anche il musical Jesus Christ Superstar al Teatro Politeama di Genova, e ancora Pino Daniele domani sera con James Senese e Tullio D'Episcopo, che bella reunion, al Mediolanum Forum di Assago, e il mio amico Renzo Arbore domani sera sarà al Teatro di Alfieri di Torino, poi il 26 all'Auditorio Manzoni di Bologna. Dalla voce di Donny Hathaway a quella di sua figlia Lala Hathaway, che recupera una composizione del padre intitolata Someday We'll All Be Free, in compagnia dei meravigliosi Take Six, qui al Soundcheck di Radio 24. Hang on to the world as it spins around. Just don't let the spin get you down. Sound check. Yes. Il suono della musica. Dopo l'informazione di Radio 24, di nuovo in contatto con il Groovemaster Studio per il soundcheck di oggi, e questi erano i formidabili Take Six con le loro voci, che hanno rivisitato Don't Give Up di Peter Gabriel con questo arrangiamento tipicamente gospel, realizzato poi dal bravissimo Marcus Miller. Allora, vi stiamo consigliando la colonna sonora ideale per le prossime feste, e un album che non deve mancare in famiglia, soprattutto se siete degli appassionati di jazz e se avete Ella Fitzgerald come vocalist di riferimento, eccolo qui, è Swingin' Christmas. Questo è uno degli album più belli della storia del jazz, fra quelli dedicati al Natale, realizzato da Ella Fitzgerald con tanto di big band nel 1959. E Swingin' Christmas ce lo augura Ella Fitzgerald con 2 brani classici, Santa Claus is Coming to Town e subito dopo Jingle Bells. Ella Fitzgerald, la regina dello swing, al soundcheck. You better watch out, you better not cry. No, I'm telling you. I just came back from a lovely trip along the Milky Way. I stopped off at the North Pole to spend a holiday. I called on dear old Santa Claus to see what I could see. He took me to his workshop and told his plans to me. Soundcheck, il suono della musica. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. E un'altra regina contemporanea del jazz come Diane Reeves alcuni anni fa realizzò il suo album di Natale Christmas Time Is Here, e questa era The Christmas Song, una composizione scritta da Mel Tormé rivisitata dalla bravissima Diane Reeves. Vi anticipo che nella seconda parte del soundcheck di oggi, quella che inizierà alle 19:15, il nostro ospite sarà uno dei migliori musicisti italiani di jazz nel mondo, il bravissimo Francesco Bearzatti, oggi residente a Parigi. Quindi appuntamento da non perdere alle 19:15. Chiudiamo questa prima parte con altri due brani, altri due classici di Natale per la voce di una star del jazz di oggi come Diana Krall, Sleigh Ride, e poi naturalmente White Christmas, una delle composizioni più celebri fra quelle scritte da Irving Berlin. E naturalmente con White Christmas io non posso che salutarvi, anticiparvi gli auguri per il prossimo Natale, e naturalmente ci risentiamo più tardi alle 19:15 per la seconda parte del soundcheck. A tutti voi buon pomeriggio e buon Natale da Giorgio Telesforo. Just hear those sleigh bells jingling, ring ting tingling too. Come on, it's lovely for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you-hoo. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Two, two, two, two, hey, hey. Something, something, something, something. Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two, mic. Microphone check, check, one, two. Sound check, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. Pronti per la seconda parte del soundcheck di Radio 24? Ancora a tutti voi buonasera da Giorgio Telesforo e buonasera al nostro ospite. Lo abbiamo annunciato, sono felicissimo di ospitare nel Groovemaster Studio a qualche giorno dal Natale, infatti è qui credo proprio per festeggiare il Santo Natale con la famiglia, il piacere di avere uno dei migliori musicisti italiani nel mondo, ormai residente a Parigi, e spero che mi abbia portato almeno un pezzettino di brio di Camembert. Francesco Bearzatti al soundcheck. Ciao, allora, ciao, buongiorno a tutti. Ciao Francesco, buonasera a te. Allora, il tenore non l'hai portato, questo mi dispiace, non avremo neanche il tempo di utilizzarlo. Mi hai portato qualcosa di tipicamente francese? Beh, intanto hai visto che sono venuto vestito da Babbo Natale, no? Beh, mi hai visto da lontano, sono arrivato tutto rosso col cappello, no? E ti ho portato i doni. Grazie. Hai sentito l'odore dei formaggi? Ho sentito l'odore dei formaggi, sì, che è una cosa che si sente negli aeroporti francesi. In partenza per tornare in Italia c'è questo lezzo, non capisci che cosa sia, se sia scoppiata una fogna, un bagno, ma invece sono i formaggi francesi. Francesco, io sono felicissimo di incontrarti, sono felicissimo anche di aver avuto la possibilità un po' di tempo fa di suonare con te al Sunset. Sei stato gentilissimo a raggiungere la mia band per questa fugace apparizione, ma molto intensa. Beh, grazie a te, per me è stato un onore e un piacere, ovviamente. Come sempre, noi ci conosciamo da tanti anni, adesso te da un po' sei residente a Parigi. Sì, da parecchi anni, direi 13 o 14 anni ormai. Come stai? Bene. Si fa musica? Bene. Si fa musica, si è rispettati, si gira, si è anche pagati e si è onorati, diciamo. Ecco, lo dici col sorriso, con le labbra. Questo perché? Perché in Italia forse nei confronti della musica, non dico solo del jazz, non c'è più la considerazione di un tempo. Sì, diciamo che non c'è il rispetto dovuto, ecco, per gente come noi che comunque fa una musica già difficile da portare in giro, che studia tanti anni, no, per poter comunque riuscire ad essere anche alla ribalta. E poi a volte io, se ho dei concerti che non mi sono stati ancora regolati, andati sono dei concerti italiani, non sicuramente francesi. Ma pensate, che cosa terribile. Terribilissima. Noi che in qualche modo la musica l'abbiamo inventata, no? Comunque la inventiamo di volta in volta, anche perché facciamo molta improvvisazione, per cui siamo costretti a raccontarci, ad inventarci. Non è facile. Senti, come è organizzato l'ambiente della musica a Parigi? Non dico l'organizzazione dei concerti, ma c'è anche un sindacato che sul quale uno si può appoggiare e far conto. So che se qualche musicista non lavora per un po' di tempo, c'è lo Stato comunque aiuta. Sì, c'è un sistema di protezione, diciamo, che esiste probabilmente in tutti i campi, ma io conosco chiaramente quello artistico, che vale per noi musicisti, ma anche per tutti quelli che operano nel campo artistico, diciamo. Per cui siamo tutelati, nel senso che se passiamo un anno a lavorare, o comunque dobbiamo metterci a casa, rinchiuderci in casa a scrivere, a studiare, a prepararci, abbiamo comunque una sovvenzione che ci permette comunque di poter continuare a vivere, a mangiare, a mandare i nostri figli a scuola e comunque ad operare. Negli ultimi anni hai vinto tantissimi premi nel jazz, primo, che ne so, per la rivista Jazz come sassofonista, e anche per le produzioni di album molto belli che hai realizzato, con i quali ancora ti stai divertendo, perché con la tua formidabile band vai in giro per l'Europa, a Parigi sei accreditato, e sempre con un concept vincente, cioè la struttura jazz, la tradizione del jazz, ma con una visione contemporanea, a volte legata anche a un'altra tua passione, che è il rock. Sì, ma non solo il rock, diciamo che a me piace la musica in generale, per cui non distingo tra generi, ma tra musica buona, musica mediocre e musica addirittura orribile, che poi non mi interessa nemmeno proprio valutare. Ascoltarla. Esattamente. Allora, una delle ultime operazioni discografiche ben riuscita, devo dire, è il fatto di aver messo insieme proprio groove portanti tipici della storia del rock con le composizioni di Thelonious Monk, un album intitolato Monk and Roll. Francesco Bearzatti, protagonista qui al Soundcheck, vogliamo ascoltare subito qualcosa? Certo. In Walked Bud, composizione di Thelonious Monk per la visione di Francesco Bearzatti, qui al Soundcheck di Radio 24. La visione targata Francesco Bearzatti di Thelonious Monk, che in questo brano a chi ti rifai da un punto di vista ritmico invece? Come hai combinato Thelonious Monk? Beh, diciamo che ho chiamato in appello il re del pop, no? Il grande Michael Jackson, che purtroppo è prematuramente scomparso. Però io l'ho costretto insomma ad incontrare Monk, anche se probabilmente si saranno incontrati in qualche altra dimensione, ormai lo spero per loro, che si stiano divertendo molto, e li ho messi insieme. In realtà stanno benissimo insieme, perché l'archetipo della musica, di tutta la musica moderna, è il blues, per cui partendo da lì le matrici sono quelle. Esattamente. E comunque, per realizzare in studio ma anche dal vivo un'operazione di questo tipo, hai bisogno anche di essere affiancato da musicisti che hanno la tua stessa visione. Esatto, musicisti straordinari, che sono appunto Zeno De Rossi alla batteria, Danilo Gallo al basso elettrico in questo caso, ma suona anche il contrabbasso, che tra l'altro è un mio conterraneo, sì, bravissimo. E poi c'è il grandissimo Giovanni Falzone, che è un musicista formidabile, un animale da palcoscenico anche. Allora, chiudiamo con Thelonious Monk, il capitolo Thelonious Monk, da un album del 1958, tra l'altro una registrazione live realizzata al Five Spot Café a New York City, proprio nell'agosto 1958. Thelonious Monk si presenta con quelli che allora erano dei giovani leoni del jazz: Johnny Griffin al sax tenore, Ahmed Abdul Malik al contrabbasso e poi il meraviglioso Roy Haynes alla batteria. Thank you. Soundcheck, il suono della musica. Do the tango, do the swango, I'm still bo-go-do-go-do, but I'm with you. Do the tango, da the ringo, oh, this my double balada, de de tango. Do the tango, do the ring, but I'm with you, darling. Tutu Tango, il sax tenore e la voce del maestro Lester Young, una registrazione del 1952 quando Lester Young ha incontrato il trio di Oscar Peterson. E infatti c'è un errore proprio nel titolo riportato sul CD, Lester Young with Oscar Peterson Trio, quando invece poi nel disco Oscar Peterson ha presentato il suo quartetto con Barney Kissel alla chitarra e l'immancabile Ray Brown al contrabbasso e J.C. Heard alla batteria e naturalmente Lester Young. E da questo brano, da questa registrazione, viene fuori proprio lo spirito del jazz, cioè la matrice del blues, grandissimo senso per l'improvvisazione e anche un grandissimo senso dell'umorismo che a volte nel jazz, soprattutto quello europeo, è venuto a mancare. Sì, e ne parlo con Francesco Biarzati, lo ricordo che è nostro ospite. Sì, diciamo che forse è vero, ci prendiamo magari troppo sul serio a volte, però volevo ringraziarti per questo piccolo cadeau che hai appena fatto, far ascoltare Lester anche in questa versione così vocale. A me di Lester piace ricordare soprattutto, vabbè, a parte che secondo me è veramente lui, insieme a Coleman Hawkins, che era però forse la parte più maschia del tenore, lui è la parte più femminile e più fragile, ed è la cosa che mi tocca molto di Lester quando sento il suo suono e il suo modo di improvvisare, questa fragilità che si sente molto anche nella voce che hai appena fatto ascoltare, no? Sì, poi sappiamo che Lester Young aveva una grande amicizia con Billie Holiday, quindi il grande rispetto per la vocalità. Certo, sicuramente. Ma poi lui in realtà, cioè in Lester non sentirei mai un pattern, no? Sentirei solo cantare, lui suona quello che canta e sono i miei musicisti preferiti, e da quella radice lì infatti sono partiti grandi Stan Getz e il nostro ancora, che ho appena ascoltato a Parigi qualche mese fa, Lee Konitz, che anche lui riesce solamente a cantare, al contrario di adesso purtroppo che si sentono magari molto più esercizi, no? Mentre sì, la differenza che c'è fra uno strumentista e un bravo musicista. È un poeta, infatti. Esatto. Allora, ultimamente ti sei divertito dal vivo con altri due amici e hai realizzato un disco per l'edizione del Parco della Musica, l'Auditorium Parco della Musica di Roma. Che tipo di progetto hai realizzato? Ma senti, allora, in realtà ho fatto uscire questo disco che è un live, diciamo antico, se così si può dire, perché adesso in questi tempi così moderni e veloci, no? È un live del 2007, se non sbaglio, registrato allo Château de Grignan nel sud della Francia, ed è un concerto di un trio che ho rimesso in piedi proprio per presentare questo lavoro. Infatti a febbraio faremo una piccola tournée in Italia, adesso non mi ricordo le date, so che saremo a Marostica e ci vorrebbe... Vabbè, tu hai un sito di riferimento dove un sito di riferimento, sì, francescoberzatti.com, e ci sono tutte le date, c'è anche la mia pagina Facebook, eccetera. Comunque questo è un gruppo che adesso ho rimesso in piedi proprio per portare in giro questo lavoro, che è uscito a fine agosto in Italia e che niente, ho il piacere appunto di... Chi sono i tuoi partners in questa occasione? Allora, i miei partners sono Manu Roche, che è un batterista che conosciamo molto bene in Italia. Conosco benissimo, esatto. Certo, ma lo conosco da 30 anni. Esatto, perché lui ha militato moltissimo nel jazz italiano. Ha vissuto in Italia anche per un po'. E poi c'è Eric Surmeniamo, un bassista molto originale, è un bassista che ha un suono particolare perché accorda il basso a quinte come a violoncello e quindi ha questo suono molto grave, profondo, e mi piace molto perché è molto musicale, cioè suona molto sul momento, ad orecchio, diciamo, no? Non si appoggia su schemi fissi, è molto pronto a reagire sul momento. Certo, e poi insomma ti è piaciuto questo tipo di operazione musicale, perché senza strumenti armonici ti sei sentito comunque libero di poter interpretare la tua musica con una libertà assoluta. Sì, beh, è una caratteristica dei miei gruppi perché anche Tinissima in realtà è senza supporto armonico. Allora, G-Train, brano scritto da Francesco Biarzati con il nuovo trio qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Francesco Bearzatti, ospite del Soundcheck di Radio 24, abbiamo presentato alcuni dei suoi lavori, hai registrato tanti dischi, abbiamo detto già che hai vinto molti premi, hai collaborato con grandissimi musicisti. Che cosa ti regala la musica ogni giorno? Ma è la sorpresa soprattutto di interagire con musicisti, di poter dialogare a livello artistico, musicale. Mi piace molto, a volte anche quando sono venuto ospite del tuo gruppo, per me è stato emozionante partire al buio senza sapere veramente quello che stava succedendo e quindi costruire sul momento, come questa intervista del resto, cioè è una cosa che mi piace molto, rimanere sempre sul filo di lana, ecco. Senti, hai progetti nuovi sui quali stai lavorando discograficamente, una nuova situazione dal vivo da proporre? Sì, che ci puoi anticipare? Se allora, sì, ho una cosa che dovrebbe uscire a febbraio, che è un lavoro che mi è stato commissionato insieme ad un pianista che ha le mie stesse origini, cioè origini friulane, ed è il pianista che collabora molto spesso con Markus Stockhausen. A lui è stato commissionato un lavoro sulla Grande Guerra, di cui ricorre il centenario dell'entrata proprio in guerra nel 2015 dell'Italia, per cui abbiamo scritto questa suite a quattro mani, diciamo, che racconta un po' la storia di questo giovane soldato, che potrebbe essere un soldato di qualsiasi paese, perché poi tutti hanno fatto la stessa fine, diciamo, no? Chiamati, sradicati dalla propria terra, mandati senza preparazione al massacro, eccetera, eccetera. Adesso è un argomento anche triste, di cui non voglio approfondire in questo momento, però questo è un lavoro che uscirà tra qualche mese, e che probabilmente porterò un po' in giro per l'Italia. Come funziona il tuo lavoro a Parigi? Hai un management, o come fanno molti musicisti, soprattutto nel jazz, hai una organizzazione tua personale, nel senso che da casa via internet ti muovi e diffondi il tuo materiale e le informazioni? No, devo dire che sono stato molto fortunato, perché dopo un paio d'anni che abitavo a Parigi, e dove suonavo, mi esibivo insomma in Francia con Aldo Romano, Henri Texier, tutti questi grandi musicisti, ho avuto la fortuna di essere contattato da Marion Piras, che è una manager molto accreditata, sì. E quindi tutte le cose che io faccio in Francia e all'estero passano attraverso di lei. Che differenza c'è fra la proposta musicale contemporanea della nuova generazione afroamericana e quella europea? Cioè, si sono avvicinati i due linguaggi o stilisticamente sono ancora distanti? No, io credo che adesso, grazie alla globalizzazione, ma a tutti i mezzi nuovi di diffusione, ormai non ci sia più questa differenza, diciamo. Non parlo di livello, ovviamente, parlo di influenze culturali, ovviamente, perché tutti possono ascoltare tutti, e per cui è anche, cioè, ci sono i pro e contro di questa cosa qua, nel senso che un po' adesso tutti si assomigliano, no? E abbiamo perso un po' le caratteristiche, diciamo, regionali, no? Cose che noi in realtà invece sentiamo ancora molto a livello di cucina, a livello di dialetto, no? E sono cose belle, diciamo che a me piace sentire molto queste cose nella musica, cioè ognuno che parla il proprio dialetto, che ha il proprio suono, la propria identità. Questa è una cosa che mi piace molto, e forse si è andata un po' persa questa cosa qua, ma contrariamente il livello si è molto alzato, perché anche chi viene dalla provincia come me in origine, che magari non aveva la possibilità di ascoltare tutti i grandi artisti, doveva sempre muoversi, andare nelle grandi città, eccetera, da casa sua può essere in contatto con chiunque, a New York come a Parigi o ad Amsterdam, insomma. C'è una realtà della nuova generazione che ti interessa particolarmente, un musicista che ti senti di raccomandare agli amici di Radio 24? Ci sono due italiani che stimo moltissimo, che sono dei ragazzi giovani e secondo me sono bravissimi e forse un po' sottovalutati, per cui mi sento di parlare, di fare i loro nomi. Uno è un chitarrista che abita a Parigi, si chiama Federico Casagrande, che secondo me ha un talento enorme. E poi c'è un sassofonista di cui io tra l'altro non ho mai capito perché non abbia ancora vinto nessun premio, no? Che si chiama Francesco Bigoni, abita a Copenaghen. Hagen, è un ragazzo di Ferrara ed è un sassofonista clarinetista come me, di livello formidabile. Bene, allora io direi, caro Francesco, di chiudere questa settimana del soundcheck, questo weekend, poi naturalmente con gli amici ci risentiamo sabato prossimo. Io non posso che augurarti buon Natale. Grazie. Ancora successi, grandissime soddisfazioni. Grazie. Non appena mi capiterà di tornare a Parigi te lo farò sapere, per andare in giro mi porterai nei posti quelli speciali. Con piacere. A sentire musica e a mangiare bene e a bere del vino buono. Ecco, quello è possibile. Allora, niente, auguri a te, Gegé, e a tutti voi radioascoltatori. Buone feste. Grazie. Chiudiamo. Allora, ti va di chiudere con la tua versione di Round Midnight di Thelonious Monk, da Monk and Roll? Molto volentieri. Qui c'è un falsone in grande forma. In grande spolvero. Grazie a tutti voi. Ci sentiamo sabato prossimo. Auguri e buon Natale da Gegé Telesforo, Francesco Biarzatti e tutti gli amici del Soundcheck.